Ciao dinamite. Un cliente a buonasera. Mamma mia, lo dobbiamo dire noi che non lo sentiamo, è tutto basso basso. Attention my friend, ascolti Italia from Sardinia. Sardegna Italia che chiama? Già, 5.000 file da cancellare, c'è Mondetta praticamente, 5.137, io non vedo un nuovo computer. L'hai visto tu o lui il profilo? No. OMC60 giù pure. Ma tu vai, non aspetta adesso che faccio le pulizie qua. Adesso dice la vendita, vedi? No, no, no. mandare a me i numeri, e ho quei numeri e la passo. Oh, un attimino, mi sta sentendo, lo sento da solo. Ehi, ha già. Ma se stai pure nel computer? Vabbè. Non è un problema. Cambi, apri il team, mi dai la password, ti dia la password. Aspetta. Entri su Facebook direttamente e me lo rimpicciolisci. Allora, entro nel team, entro. Allora, Facebook aperto. Sì, ma così io non imparo mai, Lucazzo. Scusami, E mica volevo fare che lo rimpicciolisco io. Cosa è picato di Luca con Sant'Antonio? Guarda che c'è, dove c'è la percentuale. Siccome tu l'hai messo al 125% o anche di più. C'è percentuale, ora sono qui. A che percentuale sei di schermo? Ragazzo! Hai c'è tanto notte che reali, insomma, fai sotto. Non ho capito, Luca, la percentuale. Dove vado a vederla? Fammi Luca, cazzo, no, perché voglio un tempo per buo io. Non vedo, ma non è fatto, io lo faccio la prossima volta. Aspetta, lo dimmi, però vai piano, cazzo, se no non vedo una minchia. Ma come c'era scritto il bar? è strano. Allora, aspetta un attimo. Signor Bianco. Via. Allora, connessione a parte tu, questa obiezione, amici. Sono lì. Allora vedi, questa persona ha un liste amici di amici, persone ho un liste specifica solo io. Vabbè, se adesso lo usi questo. Salvo. Ok. Amici, aspetta. Infatti non si usa la baracchina. Postazioni. Allora, che ti può... Tutti. Tu di me lo possono trovare tutti. Che ti può dire l'amicizia a tutti. Faccio, dove sei nascosto? Sono qua, amici di amici e basta. Tutti significa anche uno di fuori. Ti posso trovare solo amici di amici, compreso io, sono amico di Massimiliano e ti ho trovato. Invece tu, se io scrivo, per esempio, cioè tuo nome e cognome è nominativo, no? Ma a me è il nome, Spalviero, no? Ti trovo. Dove cazzo dove c'è la privacy? Amici e voi, non tutti, tutti un cazzo. Oh, poi l'altro è chi può inviare i messaggi di Facebook, tutti amici di amici. Sempre tutti amici di amici. Ok, fatto, allora, vediamo un po'. Personalizza. No, questo qua no, ok, c'è la modifica. Vediamo un po' questo. Allora, F5. Però vediamo la pagina. F5. Questa è la pagina adesso, vedi? Vedi? Facciamo la pagina della privacy. Classi, come ti cazzo di Canada. Ecco qua. Vedi? Allora, connessione alla parte 2. Aiuto, cazzo. Lo stesso trovo su questo qua, è vero. Inserzione, restringi i vecchi post. Connessione a posto. Ok, a posto qua. Allora, uscito. Ok, insomma, modifica. Ok. Vaffanculo, cazzo, aspetta. Tienati i coglioni. Sparati. Che fa voluto il letto, è l'operatore del Salomeo della città di San... Sono Guarinda, cambio cambio. Io sono niente, ma la cattiva simile, c'è quando non usavo un piede, sbaglia al 10 di questo canale. No, vai al 48. 48, ok. Attento amico, se ascolti la Sardegna, la città è Sassari, Italia, cambio. No, raga, Sardegna, Italia, scusa se è tutto il morto. Canale 45, canale 45, ascolti Radio Aletta, direzione Slovenia, cambio, cambio. Capo Portugal, un attimo, avanti da un amico che chiama su 45, è la stazione doppio 1, la città è Sassari, nord Sardegna, che ti supercordializza. Sassa, va a fare sia Sassa, solo la nostra Italia, Sardegna, dico, formo forse Sassari, ascolti Radio Valenza. Io, Sassa, ce la facciamo, fammi entrare, cambio. Ciao. Ciao, ciao. Non so se tu li ascolti, ma sto parlando, sono un VX come il corso, con Portugal. Portugal. Lascia perdere, lascia fuori. Chi è avanti? Una migliore azzarina, beh, ci sono qua. Ma c'è lo stesso, beh. Radio 45, si ascoltate la città di Sassari, Nord Sardegna, che chiama Gambio. Ma così dico, mi ha portato Giovanna lì a scherzare, in giro, a ridere, no, siamo passati in una via a Torino, ma allora che cazzo di via era che ci stava, là non c'era un coso, uno di questi uomini strani che si chiamò Favolo, ma era proprio un uomo, solo con la parrucca e il rossetto, mamma mia quando era che questo era di Foggia, ma un po' cosa c'è la freccia azzurra da qualcosa, da Atene che stava chiamando la Grigia. Ma quello che era al confine con la Grecia l'ho sentito anch'io oggi. Io ci ho anche parlato. No, era Atene, al centro della Grecia. Atene, centro Grecia. Ehi, ehi, ehi, sto riavviando il computer. Così è tutto fatto qua. Va bene così, me. Mi va bene che sono pure chiamato. Buonasera, Lolo. Ben risentito, 73 cordiale. Dottor Radio Scugnizzo, Fabio Freccia Azzurra, est dell'Europa di saluta. Cambio. Freccia Azzurra, Freccia Azzurra, ascolti ancora il doppio dalla Sardegna. Di due, si abbassa tromba e arriva un bel più forte poco fa. Giovanna lì a Torino che gli dice che non si può seguire, buonasera, ascolti Fabio Freccia Azzurra, coordinate Moves, provincia la mia qua, est Europa, capo. Freccia Azzurra, l'ascolti per più lungo la città di Sassari, Sardegna, Gambio. Ma c'era loro Scugnizzo, c'era Felice Pistacchio, dove sono stati? Dove sono? Gianni lì, radio di buone potenza, passa e dai, Gianni. Freccia azzurra, guarda ragazzi, chi stava chiamando Freccia azzurra? Amico, io ti guardo, non ho capito che ti ha messo a gusto, ecco perché è basso basso, ma non si capisce quasi. Chi è? al posto di metterti in nominativo tuo. validi perché puoi fare ascolto eccetera eccetera, se lo vuoi usare come un ascolto per delle bandiere amatoriali così ascolti un po' tutto. E dai, 27 già ti sei assillato per farti una bella stazione. Cioè che ci sei riuscito non parli più. Ma io da lì che te l'ho detto, se avessi dato retta a chi ne sapeva più di te, non avresti sbagliato, vabbè che tutti hanno fatto quegli errori lì, no? Quindi cercano di far evitare agli altri di far comprare mille cose. Sanno già le cose che vanno bene, ti dico prendi questo, questo e quest'altro, se tu poi hai fatto a testa tua, hai speso qualcosa in più, ma è sempre un'esperienza. Yeah. amici, insomma. E comunque questa cosa, la diarrea, deve essere qualche virus, perché anche un amico è così. Un amico mio, lo stesso oggi, non è venuto al mare perché era così, ha nausea, di pancia forte. Ah, quello è un altro mare, quello è un altro mare. C'è il mare di Ruggiuccino. Da di Ruggiuccio. E di dove è il paese? Già. Ehi, avanti. Non ce n'è più. andavo più giù, sono a San Giovanni. Sono a San Giovanni, io non c'è più, c'è la Mantovano alle 4.30. Ma lui a Chiaramonte, avevi un bel forte già lo sai, Chiaramonte per lì è micidiale. Dove sei a Chiaramonte? TV7 Radio 5. No, no, sono centrato, senza in questo momento la vivi. Con quante volte stai andando? Lo stesso, 40 watt, 50 di picco. Il picco quando fischio, picco e tala. È più pratico il palmare, lo so, lo so. E lì Carlo, no, vabbè, Carlo non entra mai in 27. Allora, vedi a Chiaramonte, non lo conosce neanche Gianni. Non lo conosce neanche Walter. C'è proprio l'MC60 con 2430, la fine del mondo. È la fine del mondo. Avanti, Antonello Pomponi, lo senti a Walter, sì? Alleluia. Attenzione, è troppo cupo, deve avere qualche filtro stretto, questa cosa non mi piace. Vabbè. Comunque. Non ho messo la mantova sopra il palo della telecamera, ce l'ho a 14 metri dal piano di terra. Rispetto a prima era 6 metri, adesso è a 14 metri circa. Poi più 35 quasi, dai. Oggi stanno bene. Non mi piace la ricezione qua. Prova in USB un attimo. Ma c'è in questo canale? Prova a vedere. Ah, ci sei Gianni? Sono non c'è, come il Galaxy Saturn, ecco perché non ce l'ha l'SSB. Questo Gianni gli doppio uno lo stesso, è una vita, deve andare, non ci va mai. No, io non te l'ho mai detto, non mi piace, non ci vado, sto qua, sto meglio qua. Ci proverba. Ti piace? Una figata. Allora io posso arrivare fino a 200 watt col 440 volt. Oh, va. Oh, la mazza che te ne varia. Questo me l'ha purificato Fabrizio, 180 watt modulati dal mandalaterale. Tengono bene, anche il 7400 no, l'ho modificato io, vabbè, una fesseria modificato, lo apri dietro, c'ha quattro trimmer, li metti a manetta e fatto, è una fesseria il 7400, ed ha 150 watt in 144, 150, 50 mega, 150 in HF. Sì. Sì. Come sta arrivando di segnale con questo apparato qua? Io non mi attacco lineare da nessuna parte, capito? Io sono sempre la potenza della radio, no, non mi interessa mai attaccare lineare a quest'ora. Va bene così. Guarda, io sono la potenza della radio, 100 watt modulati, pieni pieni, già va bene. L'importante è sentiamo. Quando me devo far sentire alto, Gianni, già lo sai, io no, non ho problemi. Attacco e mi senti più alto, però così per me va bene, io su questa radio non attacco niente perché altrimenti rischio di bruciarle con rientro di RF ed è così. Avanti Antonetti, sì. Buonasera, sono qua di no, niente, volevo sapere se c'è, sto qua. Avanti Walter. Ho sbagliato il microfono. Su questi microfoni, c'ho almeno due o tre microfoni in questa stazione, dunque mi sono confuso. Cosa volevo dire? Gianni arriva col mio segnale lì a Chiaramonti, come ti chiami Chiaramonti? Gianni, anche Gianni, Dinamite. Ok, Dinamite, c'era uno di Chiaramonti, si chiamava Gianni lo stesso una volta, te lo ricordi? No. L'articolato, non ho più sentito, e poi era di Vizzalba, quello di Vizzalba, si chiamava Gianni Chiaramonti, non me la metto più. Va bene, Dinamite, io arrivo uguale a Gianni doppio rumo. Giovanni è un originale. E io lo va a vedere, non lo so, io non lo so, sta dicendo lui così, non lo so. Sì, e questo io. Io sto uscendo con 4.30, la potenza più o meno quella lì. Oh Walter! Ma che ti stai sbagliando? Il cognome è così, ma quello lì è di Vizzalba. Capito, dunque Gianni è 7, io sono 8 e mezzo, Claudio quando ti arriva, Claudio ti arriva più forte, è affacciato da te. È tutto spazzato, chi sta chiamando? Sì, tutto spazzato, io sono con i vatti della radio, oh Walter, non è un lineare attaccato, Gianni c'ha lineare attaccato, se stacca... arriva più bassa sicuramente. Chi è che vuole entrare avanti? Sei tutto spostato, chi sei? Ciao Luca, buonasera. Oh, guarda, io mi sento male, sono un po' di Ah, no, guardate lo Smith, il frequenzimetro, 160 punto di Bregani. Fai isonda dove senti bene, fermati. Ve l'ho spiegato, non tutte le radio sono salate perfettamente, adesso tutte le altre dire che la mia è giusta e la tua no. Dove senti bene, fermati, non è che dici, ma Luca, una massa te ne scende, già ce l'hai quella che ho 10 giorni. Assolutamente, guarda che non c'hai inserito sicuramente il RIT, il XIT, qualcosa del genere, e quando trasmetti ti manda fuori frequenza, ricezione ascolti bene. Faccia la spostata quel cazzo di radio. È così. Vabbè, passiamo alla M, io, se no non ci capiamo più qua, dai, passiamo alla M. Fate ridere, è meglio nel CCB, vabbè. Passa in FM invece, passiamo in FM, voglio fare la prova anche lì, poi andiamo in M. Vai in FM, qua. Com'è la situazione? Aspetta che abbasso il compensatore. Se è troppo alta. Guarda, vedere. Troppo forte la radio, è troppo distorta. Aspetta, tolgo il processore, allora, ecco qua, così senza processore. Adesso ti sento bene. Gianni? A me come mi sentite? Bene. Oh, mi sentite adesso? Sì. Purtroppo, da capito che ci sono le puntate, questa qua, io quando vado sul canale 14, lì te lei trasmette a 27.125.00, cosa mi so qui? Io ho dovuto cliccare sul RIT per centrarmi bene, perché mi sentivo male. Ma il RIT, quando tu lo primi, ti serve solamente per centrare in ricezione. In trasmissione non è efficace, non funziona. Non so cosa hai, un 140, un 430, siamo uguali. Lo chiedo dopo lo chiedo il RIT. Ma io ti sento, tutti ti sentivamo male, un motivo ci sarà. Cosa mi so, allora, aspetta un attimo, lo square ci va cazzo, eccolo qua. Non lo so, comunque è sempre una tabella questa radio, io non ho mai toccato niente, mai. Boh, claro, te lo dico, te lo do un giorno e la controlli. Sì, magari con l'andare del tempo si è leggermente spostata. Io ti sentivo bene a 27.124.80, sono 20 Hz, non è un cazzo. Come ti ha detto Walter, ti centri e basta, è finito il discorso, capito? Vediamo un po' Gianni Chiaramonti se lo sentiamo, avanti. A me come mi senti in FM adesso? E a me come mi senti? Buon pomeriggio. Allora, sono Zoe. Come bene mi sentite? 7:30 arrivo a Chiaramonti, già va bene, è buono. Ottimo per la tua, già va bene. Non mi lamento. Ecco, prova tu un attimino qua. Guarda, cazzo, tutta male sta gente. Io devo mettere così allora per arrivare bene. Sta maletta anche io. Io sono il carro regolabile. Prova a vedere Luca come mi senti. No, ma se ti sento benissimo, la telefonata. Sì, tutta la doppia V, vai tu, Walter. Sì, va bene. Ma io mi sento tutti bene. La radio abbassati un po' solo, perché Luca sai troppo alta la radio. Troppo alta, claro. Guarda, aspetta, dai. Ora adesso? Va benissimo, in FM non c'è bisogno, se no va in distorsione, almeno da me questo, sto usando un 4.30 della Kenvi. 9.50 sei qua, Walter, se invece 9.10, Gianni doppio numero 9.60, prova Gianni. E adesso quanto so? Sì, sul DB sei Gianni. E io quanto arrivo? 9.50. Attenzione Luca. Ehi, a Giuseppe vai. Ehi, guarda come ci arrivo io, sono sulla strada, 4 corsie per Alghero, cambio. 9.40 sì qua. Scappa. Ciao Giuseppe. Buonasera. Tutto bene, tutto bene. Walter, se c'è l'NB disinseriscilo che ti distorce la modulazione e togli il notch, forse per quello poco fa ti distorceva un po', No, no, lo so, già tutti sotto quello che è entrato adesso. Oh no, disinserito. Chiaramonti, Gianni mi arriva 8, radio 5 perfetta, sembra qua a Sassari. Che qua arriva 8? Avanti Gianni, Chiaramonti. Ma senti Gianni, è un problema suo, non è un problema mio, perché lui dappertutto. Poi mi stava spiegando anche Claudio, lui è un fosso. Io sono lo stesso, ma comunque non ho mai avuto problemi di parlare con Porto Torres. Arrivo dappertutto, anche a Trentino arrivo. Ahia, avanti, riprendi tu doppio rumo. Probabilmente la zona non è favorevole per te. Succede, uno può arrivare, l'altro no. Magari c'è qualche ostacolo che fa arrivare. Senti, Cino di nuovo, super salutoni, ciao. Scappa, eia, scusate se mi sono intromesso così bruscamente, era per salutare tutti quanti gli amici, quelli che sono al canale 14. C'è nessun problema, Leoncino, e ben accetto lo stesso. Scappa, chi c'era anche a Balte, no? Ho sentito che c'era a Balte pure. Ciao, Pulmino, Leoncino, ciao, buonasera, ben Scappa, ciao, Balte, tutto bene, sì? Non credo, ma che c'è la salute. E Scappa, vabbè, no, non ci sono problemi. Poi chi c'era, Gianni? Claudio c'era? Che Claudio, avanti Claudio. Ciao, Furgoncino, buonasera, ben sentito. Furgoncino. E a mio volta che Walter parla con suo vicino di casa, se ne sono di fuoco tutti e due. Walter non è a Sassari alle punti. Sì, lo so, ma abitano di fronte, c'entra adesso. E in pratica Sassari abitano di fronte, uno si parla uno di fronte all'altro, diciamo che per fare l'antenna arriverà lo stesso segnale senz'altro qua. Sentite con questa radio? 9:10. No, non sono ai punti qua, sono giù al bunker io. A San Giovanni sì. Se te lo sto dicendo, i punti guai, dai punti avrò un segnale molto più forte, c'è l'amplificatore, qua non sto usando niente. Sono nel 4:30 la Mantova. Cioè, non l'hai sistemato, ma hai terminato su, che cosa hai fatto? No, niente, io non vado giù a Manfranco, sono fermo. Adesso non ho fatto niente, però prossimo anno adesso sono fermo. Beh, ma la copertura, tutto il resto è tutto fatto, cioè fai l'interno. L'interno, sì. E a puntellini. L'importante è che hai fatto il grosso, poi usate le foto. Piano piano te lo metti a posto, se ne frega. Quando ci sono soldi si fanno le cose, se tra soldi non si fa niente. Sì, ho capito bene, giustamente, come siamo io e tu, Antonè? Loro sono molto vicini, sono molto attaccati. Ma lì dal bunker, quella piana, e dalle punti è micidiale, perché Chiaramonti l'abbiamo già verificato da sempre con Walter, quindi no, non ci stanno problemi. Io ce lo giro davanti ed è già un miracolo che arrivo a Chiaramonti e arrivo anche bene, se no non sarei arrivato niente. Ehi, io lo so, sempre in campagna dove abito io, cioè dove sono stato io, in campagna mia, stavo come arriva forte, cioè di Sassari. Quello è un punto strategico, basta avere un bel paletto lì, basta cambiare gente. E sono finiti i tempi massacrati, per quelli che siamo rimasti è giusto che ci facciamo due prove, due chiacchiere, va bene così. Avanti, Chiara, Monti. L'Isola è sempre bello, ma anche quel nuovo vedente Agostino non sta più parlando, o Gianni? Gianni? Lo conosci Agostino, come si chiamava, quello che abita in alto nella Torre dell'Acqua? E parla Carlo anche, però non qua. No, tu non ci puoi fare niente, potresti dirgli ciao, salutarlo. Ma lo conosci di persona? Va bene, va bene. Ciao Gianni Chiaramonte, allora dai, buonanotte, ci aggiorniamo e fammi sapere al telefono quella cosa che ti ho chiesto. Avanti, doppio root. Ciao Gianni, buonanotte, ci sentiamo. Leoncino, a te il microfono. Ciao Gianni, buonanotte, è un buon trabacco per domani, dai, quando lo fai. Claudio, ma chi c'è? Il mezzo maniaco di Antonello Pupugno. Ma saluta, ma c'è un messo. Aspetta. Che io non lo sento. A chi non senti? A Leoncino. Che Leoncino, Leoncino, a Gianni Chiaramonte. A Gianni, ti saluta Antonio Bombolo. Ma ricambiate accento, Frank. Grazie. No, è a te, Fulgoncino, Antonio, cazzo, non ne capisco più una minchia. Gianni di Chiaramonti. Saluti erano Leoncino, Gianni di Chiaramonti, tu già ti sente bombola. Ma Fabrizio, novità c'hai qua? Il Fabrizio Walter ha fatto la richiesta. Penso che la prossima settimana, cioè questa che viene da lunedì a venerdì, gli arrivi tutto. L'ha fatta mercoledì, perché è in ferie a Platamona, ma dovrebbe essere già rientrato perché riprendeva servizio domani. Speriamo, ci faccia sentire. Quello di Urbia mi sembra già mezzo guasto. Ho parlato oggi con Paolo, ha detto no, dato stava facendo la domanda e la radio ha detto la compra quando gli arriva la licenza. Che cazzo di discorso è? Poi guardo tutto quello, no, vai tranquillo che Fabrizio è già super attrezzato come quando lo ero attrezzato io prima di avere la patente. Tranquillo, Fabrizio c'ha tutto, HF, antenne montate, tutto dalla razzetta, non ha problemi Fabrizio. È già pronto, fatto detto appena ti arriva il nominativo, comunicano, ti accendi la radio e ci facciamo le chiacchiere, ma ha detto va bene. Cappa, ma te, dallo tu, io ho battezzato in truppi. Ma di Fabrizio non c'è il dubbio, il minimo dubbio, no, non è un problema. Entrerà anche, penso, quello di Benetutti, che è un amico di Carlo. Oh, si arriva, no, già arriva bene tutti da qua, da in VNU, vabbè anche in HF se si attrizza. Comunque siamo tutti qua, bene o male, dai, dai mattoni nuovi e vecchi siamo tutti qua in 27, non c'è problema. Però se si attrizza già lo sentiamo. Ma sai se c'è antenna, se c'è tutto questo bene tutti. C'ha un FT1000 MP mi pare, non so parlare, ci ho parlato un poco, 5 minuti una volta, già ne ha, le antenne non so cos'ha, ma il VHF la doveva comprare, io dovete pigliare una Diamond, una X500, capito? Vabbè, riprendi Gianni. Paga, e va bene, sono contento che anche da voi si sta ampliando la frequenza, i frequentatori soprattutto. E anche ancora ogni tanto qualcuno entra di nuovo e fa bene così, dai, fare quattro chiacchiere, stare in tranquillità per stare battagliare a fare, ecco che ci sia poca gente, io che ci sia poca gente. Claudio, a te il microfono. Ehi, va bene, fate fare radio Gianni, lo sapete come la penso io, no? Io con Walter di queste cose ne parliamo spesso, io sono abituato così, entro anche da altre parti, però la maggior parte del mio tempo lo passo qua, voi siete voi e va bene così. Un po' per incudere, un martello, si gira, si fa, l'importante è fare radio, non essere assenti, poi piano piano. Stasera ho chiamato a Coso, mi sembra di sentire Antonio che stavo uscendo da Albero, possibile Walter? Ma se lui è lì, cazzo. C'ha le fede sino a fine mese mi pare di entrare. E Gianni, non è, allora partiamo da un concetto, che l'attività radio, se è positiva a livello proprio ricreativo o come vuoi definire, per passare il tempo, è un ottimo oggetto quando poi non si superano certi limiti. questi. Se prendi le bande singolarmente, il 27 è una cosa più locale, no? Si chiama banda cittadina per quello, perché in assenza di propagazione fai QSO a 70, 100 km, 30, dipende dalle posizioni, dalle antenne. La differenza è c'è andare in HF che si è un po' più controllati, però se rimaniamo nella banda cittadina delle HF, cioè nei 2 metri, a ventola, o nei, come si chiama, nei 2 metri, in 70, in 23 cm, nelle frequenze vicine, basse, alte, dove fai QSO, diciamo, locale come qua. È la stessa identica cosa, sono sempre i soliti radioattori cittadini che fai delle prove, che poi litighi, succedono, le stesse cose succedono. L'alternativa però che cos'è? Che ti sposti, vai in HF e parli con tutto il mondo, che qui non puoi, e non è poco. NBDG, no è buccia di gioco. Lo so, è un altro tipo di frequenza, che qua in propagazione ti permette con, diciamo, con città estere, di piccola abilità, non, la frequenza lì a me non mi è mai piaciuta perché è troppo seriva. Mi piace solo frequenza molto, che usate voi, che si parla più o meno come la 27. Quello mi va bene, ma ho sentito Link Nazionale, tutte queste cose qua, che fanno le perle anche lo stesso, che fanno cazzate che fanno con la 27, per cui ho veduto anche il ricevitore, non è di brisa bene. Non ne sto più ascoltando, però se lo vedo posso fare il pino. Avanti a chi tocca. A Luca tocca. Mi sentite? Sì. Sì. Bene? Sì, benissimo. Ho abbassato un po' i quattro, se li abbassano troppo. Mi sono a zero. E chiusi i quattro qua. Qui arrivi 9.40, non lo so. 9.50, prova, 9.50, prova. Ma io non si possono regolare i watt nel 4.30, o no, Cla? No, non si regola, usa il carri, rimane fisso. 9.50, sì. Ehi, basta la modifica che ho fatto io, to. Io qui sono a 100 watt, qui sono a 0 watt. C'è a tagliare il transistor, ti ho detto, e tu, quella radio, ci riesci sempre per bellezza, ci ho messo 20 watt, to. Però già si può fare un sacco di cose. Io veramente con l'aiuto di Fabrizio, che si impegna molto di più di me, anche se io queste radio le conosco bene, però lui si è documentato moltissimo e quindi abbiamo scoperto che tagliando un transistor e facendo degli accorgimenti si può avere la potenza regolabile. Anche con 140 si può fare, Luca. Non mi ricordo dove che non lo fa il 140 la potenza regolabile, boh, forse ce l'ha in banda laterale, non regola, però si può regolare. E 440 e 430 è la stessa cosa. Ok, non c'è problema, Cla. Ma mi va benissimo così, quella mi rompe le palle che devo spostarmi in banda laterale. Boh, no, bisogna dargli alla Fabrizio se gira a fare regolarmelo lui. Siamo un po' troppo, ti arrangi tutto. E io ce la faccio a fare. C'ha tutti gli strumenti, Fabrizio si è fatto un piccolo laboratorio a casa, non c'è problema. Non c'è problema. Io ho comprato una linea valvolare e me l'ha allineata lui. Perfetta, è la fine del mondo. È perfettissimo, proprio col frequenzimetro decimale prima erano sempre a 0,80, 0,90, addirittura anche 200-300 Hz. Adesso invece è perfetta, con i decimali 0,0 non lampeggiano più, è perfettissimo, ma l'ha allineata lui. È bravissimo Fabrizio, molto bravo. Molto bravo, molto pompa, riprendi e per rilancia Giuseppe, sei già arrivato ad Alghero. Ehi, ok. Giuseppe, ci sei? Ciao, dai, ci sono, sì, sto ascoltando. Ho superato adesso delle mosche, dai. Ma ci sono più mosche che selle? Non ho capito. Se ci sono più selle che mosche? Ma la mosca per il capo. Aia. Poi sei arrivato, se le mosche sei arrivato. Ah, se le mosche, sì, così hai detto. Ascolto, dove fanno il vino, dai, lì. Adesso sono qua già il monitore, dove c'è il monitore, cambio. Vabbè, sempre fondo scalasino, non cambia nulla. Va bene, avanti, Walter. No, aspetta, tocca a Bombolo. Bombolo, riprendi. Ah, capo, giusto, ma è male che la mosca aveva in capo. Stavo dicendo, Gianni, sì, lo so anch'io che quando c'è propagazione qua fai anche la Nuova Caledonia, perché l'ho fatto una vita. non lo fai adesso. Se dico io adesso di venire e andiamo a parlare col Venezuela, non ci riesci da qua. Questo è importante. Dai, ma a me non me ne fotte parlare con Venezuela, perché tanto parlo con Pompugno, che sono in Venezuela, guasta Sassari, è meglio un guasto locale. Ah, sotto, quanto è pronto, guava. Guava, io pensavo che era diventato scavo, invece è pronto, peggio di prima. Quel buco è verrà che ti ha fatto saltare qualche giorno, cazzo, vedrai tu. E mi piangerà tutta quella mondezza che hai preso, cara. Kappa, ti aspetto. Cosa volevo dire? A Sella e Mosca, quella zona lì arriva bene, chi è? No, Leoncino, Bombo, lo chiedo. Leoncino. Ah, Leoncino. Ma che ho conosciuto io, chi è Leoncino? Ehi. Ah, sì. Leoncino, mi senti lì? Capo, a voi aumentare, mi sta attaccando lo squint, base. Non esagerare, mi arrivi 4 a me. Va bene, dove stiamo, Alghero? Non so, sono arrivato Alghero, sono... ho capito, va bene. Allora, Alghero lo stesso, claro, io vabbè non entro spesso qua perché Puglia, lo sai, mi fa sempre piacere. Alghero, tutti spariti lo stesso, tutti muri, la rianimatoria ne parliamo, ce ne sono 30, non manco uno attivo, ogni tanto entra Riccardo, ecco delta, ecco, ma l'attività di Riccardo è limitata a 2 micchionate in VHF. Tutti spariti, qui Carlo Laparrera, Carlo, tutti quelli che c'è, qui era l'altro, stava sempre con il 140. E Sandro, tutti, sì, sono tutti spariti, ho avuto, da poco li ho trovati ad Alghero, alla festa di Fertilia, la giurisdizione della vita, perché, cazzo non dico, Riccardo chiama, c'è buona voce, poi lo chiama e non risponde più, mi si è scaricata la batteria, ma che cazzo di radio c'è? No, perché chiama e lascia il volume a zero, lui vede lo Smith, ha capito che sale, che sta parlando, però al volume a zero non sente. È strano che c'ha le orecchie come Andreutti, appunto dovrebbe ricevere bene, invece nulla. E vabbè, quello che faceva più attività era Salvatore, che è morto. Poi, boh, non ho più sentito Marco, il padre, i fratelli di bandiera lì, boh, non sente più nessuno, io come sono qua. È tutto acceso, no, non è che sto spento, tutto acceso, sento qualcuno, rispondo. Se non c'è nessuno, ho chiamato oggi, c'era Antonio lì a Travaniglio, e basta, poi non sento nessuno, tranne che a te, a volte a Marco, così, no? Vabbè, periodo estivo purtroppo è così, non c'è problema, vabbè, aspettiamo il periodo invernale. Comunque, io le antenne me le ho tutte sistemate, i cavi li ho messi tutti nuovi. Ti ho detto, adesso domani mattina chiamo a Dae, a Giorgio, che ho mandato il telefono tu, dico se mi manda il 7004, e prendo il 7004, e si rabbigliano tutti quanti in culo. È una radio che puoi fare attività a 160 gradi quasi, poi è un modulatore, beh, aspetta, esco con un dipolo, poi mi dici se mi senti con 7004, vuole il minimo. Io non sono un mio polizzatore verticale, che mi sono verticato di dirtelo, io sto andando con il dipolo malato Marco, 10, 15, 20 e 40. La manta va al capo staccato momentaneamente perché l'ho attaccato a nuovo, l'ho messo nuovo e me ne serve un'altra calata. Appena c'è i soldi lo compro e glielo riattacco, però io sto andando sempre con una polizzazione orizzontale, attenzione, forse il segnale per quello che vale al mio, Io sempre a polizzazione orizzontale. Di polo full side da 50 metri, che se poco è maduro, che aspetta quando lo sollevo 6 metri alto, schioppetta forte in 20, in 40, che avanti già ne do più route, mi sono eticcato, scusate, io sono sempre a polarizzazione orizzontale. Ma Claudio, non ti sento chiaro di radio, non ti sento chiaro, probabilmente è troppo forte e tende come a strappare. Sono senza processore, aspetta che abbassiamo un pochino, ecco qua, così ho messo a 50 watt. E così va bene. E forse troppo alta in potenza, ero a 100 watt, adesso ho messo a 50 watt. Sono senza processore, allora se faccio così, guarda qua, cosa succede? Qua, magazzino. Senta il processore, la mia modulazione è così, l'MC60 scherreggia forte. Com'è? Ecco qua. Questo è 7004, quello di Polo, mi sentite? Io sono posato orizzontale lo stesso, mi volte. Certo. Aspetta, questo deve accordarsi ogni volta. Com'è la modulazione? Meglio dell'altra. Santiago Teco, i direttivo lo sento io. Ma qua fondo scala. Di qua invece no. 9.15 in Omni Zanale e l'altra è Santiago basso proprio. È normale, Ari, è normale. Sto andando con un'antenna multibanda qua, dai 10 agli 80 fa, per lupo 80. Dunque non è che posso pretendere di arrivare come la verticale con l'antenna dedicata a 27 non ce l'ha neanche, sto andando con l'accordatore. Però la modulazione, guarda, questo è il microfono normale, è un treno il 7004. Io sono lo stesso come te, mi sto usando di polo, mi ha dato Marco. E arrivo a tutte le parti. Se non lo dicevo non se ne accorgeva nessuno. Lavoro meglio con questo che con la verticale. È una saetta questa antenna, veramente una saetta. No, te l'ho detto, domani mattina chiama Giorgio lì per mandarmi 7004, mi sono rotto le palle. Così ne stacco la Leastcraft, lo conservo e uso 7004, 50, KF, VHF. VHF 100 watt da. Sì, sì. Da tutte le parti fatte con 104, poi ti lasci a 150, non va di più tanto. Sì, vabbè, poi mi dici cosa devo fare, le apro la potenza, la lascio stare a tutta birra in tutte e tre le bande. Se la biglia in culo, mi metto questa antenna e l'altro cavo lo passo alla Mantova, così siamo a posto, finito la collezione, finiti anche i soldi. Ehi, dimmi. Posso chiedere una cosa, ma c'è l'accordatore automatico? Sì, questa radio sì. Me ne sono accorto. Perché? Perché cambia il segnale quando accorto. Hai delle variazioni, sicuramente non è... ha delle variazioni perché va a accordarsi, magari l'antenna non è adatta per questa banda e quindi va sempre ad accordarsi. E già me ne sto accorgendo, non so come mi senti tu a me con il dipolo. No, ti sento bene, 9 radio 5. Sì, ogni volta che prendo una portante c'è a stazionare e poi va si accorda. 9 radio 5. E da te Luca ha cambiato qualcosa? Scappa Luca, mi pare che. Comunque anche qua sei Santiago 8 e Radio 5. Va benissimo, dai. No, come era il 7004, costa poco e rende molto. Rende molto. Riprendi Gianni doppio route. Qua se non vedisci se ti interessa. E riprendo per salutarvi tutti e domani si lavora. Vi saluto tutti cordialmente, dai, faccio corretti, anzi faccio un po' di corretti e poi faccio corretti del tutto. Tutti vi auguro un buon inizio settimana e buona serata. Continuo questo, ciao ciao. Ciao, ci sentiamo Gianni alle prossime. Ciao Gianni, ci aggiorniamo, dai. Buon lavoro per domani. Speriamo che sia un rientro buono, anch'io mi c'ho domani, dopodomani e poi finita la pacchia anch'io. Va bene, vediamo dove è arrivato il furgoncino. Giuseppe, questo Giuseppe è imbagliato di strada e farà lo stagno di Lugari che... È un lavoro sicuramente. A Basanta, Acqua santa che ti diano. Cosa mi tocca fare, Walter, hai visto? Tenere a bada questi ragazzuri che... maledetti che... uno più figlio e bagaccia dell'altro, Sì, ma questo è più fatto così, non è che cambierà tutto. Ok. Va bene, quasi cambio radio. Ciao Gianni doppio room, ci sentiamo. E domani lo so, si deve lavorare. Purtroppo è così. Infatti mi sono abituato a non alzarmi più la mattina a volte. Minchia, c'ho altre 2 giorni e poi anch'io, sono da maggio a casa. sono da maggio a casa, cazzo. Mamma mia, mi è venendo una gagna, che. Come mai non sei lavorato? Io? A giù maggio con voi. Non hai detto niente. Ma non sapeva il precedente. Via, via. So che ho 12 metri di altezza dentro una vasca piena d'acqua, fortunatamente. L'avevo svuotata 2 settimane prima e fortunatamente l'ho riempita. Se fosse vuota quest'ora sarei stato già morto. Sono contento che ti sei salvato. Si cade molto che sì. No, mi si è staccata la spalla a sinistra. Adesso sto terminando la fisioterapia, comunque è andato tutto bene. E niente, sono ancora in infortunio, ma sul 24 c'ho la visita all'infortunio, ma credo che me la chiudano, perché insomma, a parte il tendine che è ancora messo male, ma la spalla sembra che si sia messa a posto. Anima mala, non li vuoi. Grazie al vostra. Vista la vista, come ti vogliono bene. Brutti paraculi. Compare, che non succede niente, dai, non succede niente, se no puoi toccare fare un mese piangendo. No, ma sta veniva lì, intanto lo testamento del radio era giù, gli ha fatto, bastardi. Guarda, amico, qua c'è Walter, lo so che quando muore il radioattore ne andiamo a dare le condoglianze, ma le condoglianze sono per le radio, Facciamo la fila come ha fatto quell'altro, capito? Quando vuoi uno andiamo a io, alla bella, quanto vuoi dare a parecchi suo marito, signora? Lui ha pagato 1.300.000, 400.000, signora, non c'è problema, ce potremo via tutti. E di là a cosa facciamo noi? Tramite andiamo molto Italo. Condoglianze, signora, dove la stanza del radio? Quando è morto Italo c'era il compare che è morto lo stesso Gianni. La moglie è stata la prima a dire: per favore buttatemi via tutta questa mondezza, buttatemela via. Allora, siccome eravamo in tanti come adesso, di più interessati ad avere il radio, ho detto, buttate via no. E allora abbiamo nominato un perito, Gianni, che ha fatto delle valutazioni anche di favore e aveva recuperato 3 milioni e mezzo. Però stava buttando tutto, mi butti via tutto, non ne posso più vedere, meno male che è morto. Invece Italo Barbatti, non so se te lo ricordi, quello che lavorava alla Girola, abbiamo conosciuto la figlia, mi ero con Gianni Lopirrum lì a Porottores, ma ha detto che c'è ancora tutto, è tutto conservato dentro l'armadio, cazzo, bisogna andare. Non ci penso neanche lontanamente. Ho giurato da quel giorno di non comprare più niente, dai ragazzi che se ne fanno. Io ho fatto una lista, l'ho data a moglie e figli, ho detto se muoio i prezzi sono questi più o meno, se poi muoio ancora più avanti ve li aggiorno. Dunque. Cazzo, ma una radio a tuo figlio ce la puoi lasciare? Ho fatto una lista da lì, devono andare avanti, queste 5-6 radio se le prenderanno. Vabbè, io lo stesso qua, ho messo tutto nel radio d'epoca, ho già scritto, sono per Walter Diabolico, capito, le radio d'epoca però, quelle invece mezzane sono da regalare agli amici più stretti, quindi uno per uno, insomma, qualcosa già esce, dai. E sotto c'è scritto, ai non rompi coglioni. Io sai cosa ho fatto, opera, ho dato tutto quanto la chiesa. Gli apparecchi, baracchini, quello che c'è, cavo, antenne, tu quanto la prende, quello che c'è via San Donato. Sai cosa ha detto mia figlia? Che se muoio io, quando sarà, questa porta rimane chiusa, vita naturale durante, qua dentro non c'è da nessuno, chiusa a chiave. E mi ha promesso che si prende la patente, seguirà la forma del padre, quindi con mio nominativo. E invece il 27 entra come sparviera. Mamma mia, non dire niente a me, mamma mia, non dire niente al baracchino, sono guai. Cioè, tutti quelli che sono casa tua si mettono, già lo sai. Non dire nulla, sennò si è fregato. Però, ma parlare con sparviera? Sì, già ho avuto io esperienza qua, quando, non qua, in via di Zedup, quando c'era Coso Chetti, e Roberta non capavo più io, o non dormivo più. Ogni giorno c'era la fila del CB, c'era col furgone, con la motocarrozzera, tutti lì ero. Certo, non vuole manco sciopere mia figlia, ha detto che comunque ci prenderà la patente, basta che non la convinco a prendersela adesso subito, perché se le piacciono le radio le sono sempre piaciute, però non lo so, adesso vediamo. Che palle, avanti Walter, riprendi Walter. Cambiato radio, questa com'è? Bella lo stesso, ma in FM e in laterale vanno bene tutti, poi in AM gli accorgimenti sono quelli, capito? Io ad esempio per il 7004 ho l'SM20 nuovo, ho l'MC50, ho l'MC80, l'85, 60, ce li ho tutti i microfoni, uno per ogni radio, ho l'MD100, l'MD1B8, l'MD1C8 e ne ho dei microfoni da abbinare. Sto girando l'antenna, sto dando quella direttiva alla Mosley. Quella è la Mosley? Girala, puntala sopra di me, anch'io sono a polarizzazione orizzontale. Non c'è ancora, non c'è. Ecco qua, va bene. Ehi, a 9.40. Ma sta suonando, dice, più bassa, ti sto scendendo un 104. Non di me. 9.40, sono 2.20 qualcosa. Ma io sono a polarizzazione orizzontale, Antonio, tu sei verticale, lui a polarizzazione orizzontale, è chiaro che il segnale è più alto il mio e il tuo. Guarda così, 70, 100, 110, 150, così è 200 watt. 9,40. 200 watt, spero che riscenda a 100, mentre tirarlo, flepparlo, 90 watt. Qual è il Mark 5? No, 7008. 7008 con il microfono ad Unis AM308. L'AM308, io sono 908, quello con l'equalizzatore. Lo voleva Vannino, invece poi non si è fatto più sentire, allora ho preso, l'ho attaccato al 3210 della ICOM e va perfettamente bene. Ok, bianco per me, un secondo che è arrivata mia figlia al lavoro, vado a baciarmi la pizza. Cioè, bacia, maniaco. Oh, Pomponio, cosa ti volevo dire? Dimmi, sono qua. Fabrizio, vabbè, è passato, siamo tutti contenti. Tu non ci vai a Cagliari, vabbè, non ti fanno entrare nel pullman per il biglietto. Non mi dire che mi vuoi commettere mattone a me. Non può essere, che mi è sempre... ci sono sempre rimasto antipatico, adesso mi vuoi commettere mattone. No, non ci credo, guarda. Non venite, guarda, metto la candela, va. Se vuoi che io diventi un attore, guarda, ti giuro, se me lo chiedi tu, non c'è problema. Io ci metto poco a studiare e diventarlo, subito, io lo sai. Sono diplomato qui, non ci metto molto a farlo. Dipende da te, una richiesta tua dipende. Se vuoi che lo divento, se no ho pazienza. Io non sono mai avuto niente con te, che sei guasto, te lo dico, perché sei guasto, ma se fai la domanda ai pazzi io sono contento. Carità. No, siccome sono guato, come fanno con la mia bella patentina, me lo chiedo, non è vero, siccome ho fatto la domanda adesso per la pensione, non per la pensione, per l'invalidità, mi hanno 77% di invalidità, quindi non c'è problema, riesco a avere anche magari qualche punto di più perché faccio secco, e non faccio mai con il corso, mi ha fatto Paolino, faccio così. E non ci sono problemi. Non c'è più il giuro. Posso non c'è più. E gli anari, quella. C'è solamente l'elettronica, l'ore di base, quello luce che la cosa. Questo mi viene il nome. Comunque, vabbè, va a pensare adesso. A parte qualche cosa in più che hanno messo in più, ma non è problema, quello poi tanto sono in giro, quindi. La normativa, tu dici. Vabbè, a parte la normativa, dice che ci sono delle cose che non c'è niente la normativa e quindi, vabbè, se proprio a fare, cosa mi da tutti. cosa si può fare, certo, bisogna farlo anche. È meglio. Non ho più sentito neanche a parco uno. E che rientrava in cosa? In... come si dice? In 4 entrate entrava sempre di solito. Ma ti parlo di 10 anni fa, non di più. Poi ho mandato io, ho mandato anche lui, poi ho mandato, non so, forse anche gli altri, perché dove ho abitato io e San Donato non c'era sbocco, capito? Invece in cosa abito la madre, tranquillamente arrivavo da Via Cotalaga, figurati con Gommino, a Genova. Poi, non ho sentito più nessuno. No, poi sì, ma tutti sono così, Walter, hai notato che ci sono, per dire, 200 animatori che fanno il piglio del patentino, e una volta aveva piglio del patentino, dopo 5-6 mesi pigliano tutto, non vengono più. È come quando uno, per dire, si sposa, per dire, che dopo che sono fidanzati va tutto bene, poi che sono sposati, figlia e si separa, poi la cosa, c'è un sacco di gente che piglia, per dire, il patentino, oppure il macchino per poter entrare a fare il CB, dopo di che sparisce, non entra per un po' di tempo, magari lo senti dopo 10-20 anni, quello che è, e poi dopo Walter, c'è il computer, capito, che va adesso, e quindi li trovi tutti su Facebook, parlano tra loro, si vedono tra loro, ormai c'è da chi l'hanno abbandonato, capito, non è più come prima, finché c'è il computer la cosa va, quando il computer non c'era più, che nessuno ne sarà più niente, allora diventano per dire 27, in cosa, in, hanno abbandonato perlomeno la cosa migliore, ma come la penso io, poi non so se è sbagliato oppure no. Vabbè, sei un po' vago, non preciso, il computer ci sarà sempre, sarà migliorato, prima in base, la tecnologia sarà sempre migliore, tutto quell'aspetto. Ecco, sono delle cose diverse, perché arrivare a parlare su Facebook, mai entrato, mai c'è è come se prendono un telefono, poi si c'è un telefono usato, vedi, a me sente, però lui lo so, la radio per collegamenti con la tua antenna, con la tua radio, con la tua capacità, non si applica ancora su un telefono. Però ti dico, quando si c'è anche una scuola o un'introduzione alla radiofrequenza, la devo mettere a 90, perché tutti i primi passi per fare adesso, non si dà la risposta per fare la radiofrequenza. Dunque, sarà difficile, per quando moriremo tra un ideale, quanti noi stanno facendo noi, la radiofrequenza, no, per fare però la radio è la radio, che la passione ce l'ha, la cultiva e va avanti. Io pure il computer lo abbiamo molto con la radio, ma la radio è sempre il computer, la radio sia per le montate, ma in caso delle capitole di flagga, che abbiamo abituato a un'opposizione di collegamenti importanti. Prima andavo a Caccialibera, era molto il nostro esercito, e io accendo e vado a fare il Caccialibera, mi piace sentire. Ma come fai tutte le bande? È ovvio che così è più facile, no? Prima era molto più difficile, ma prima c'era anche molta più attività. C'erano 200 radioamatori che entravano, avevano preso la patente, 200 radioamatori facevano l'attività, oggi su 200 radioamatori ce ne saranno 10 attivi, non di più. Tu guardi i numeri, Alghero ce ne sono, mi pare 37, non è in passività, uno ogni tanto, a Olbia sono 42, è in passività, uno ogni tanto, Paolo. Tempio sono 11, non ce n'è neanche uno, appunto, e via dicendo, Sastre 70, c'è anche un 10, il professore 30, non ricordo tutti i dati, così, ma farti capire che... però ci sono anche quei matrimoni nominati che sono una vita e che sono delle facce nostre di radio che non l'abbandonano neanche in quel caso, dove la tengono sempre in vita e fanno attività. Poi agli altri li lascio andare anche col PC, il giorno che non pagano la colletta si faranno con le banche. Se lo penso, cioè via si fa tentino solo esclusivamente per potersi salvare il culo, secondo me non va bene. Quindi avrei fatto una legge per dire se tutti gli fate zero per l'altro devi avere un, ogni mese per dire devi fare come ti posso dire un tanto di ore, hai capito, per poter utilizzarlo. Inoltre uno si piglia il partito per salvarsi il culo, cosa cazzo tiene a fare? A un certo punto non piglia il partito e basta, è tutto lì. Invece il parecchio fa come il baracchino, si piglia la concessione e poi il parecchio non li usa, cosa cazzo lo piglia a fare la concessione per dire? A tenere la parecchio in casa buttato. A un certo punto era stato bello fare una legge per dire, beh, tutti si piglia il partito delle mattone. Ogni giorno fare per dire 4-5 euro di attività, basta, segnale il nome attivo e cose del genere, invece no, invece è il contrario, ci sono per dire 300-400 persone che si pigliano il patentino, chi cosa, chi la concessione e poi non entra per niente, poi non piglia a fare a un certo punto, per niente, a un certo punto lo... vedo se viene l'apparecchiatura, non so dove è l'apparecchiatura, così cosa cazzo si deve fare? Ma è così, e qui hanno gente guasta, ma ce ne sono tanti, ma tanti. C'è gente che ha preso la licenza e non ha mai parlato in radio, c'è gente che non ha mai fatto licenza di radio nominativo, ce ne sono tanti. C'è gente che non ha mai avuto manco la radio, diciamo la patente. A tempo c'è la moglie di tutti, quelli erano però quelli che chiudevano gli esami, le moglie passavano, scoppiando, non hanno mai fatto un corteo. Ma prima non c'era il telefono, era un pagliattivo, poi ci sono i telefonini che vanno l'abbonamento da 20 euro al mese e la seconda parte non sono al telefono, con quelli del PD e del PNR. Mondo, questo della radio, molto presente, io per durare nel tempo e per fare attività non guardo mai nell'operatore dell'altra parte, se cioè, non guardo le soddisfazioni, poi ci sono delle cose che stanno meno sicuramente di quelle qua. Quasi sei rientrato. Ehi, dai, sono rientrato, ma vi saluto, che domani devo stare presto alle 7 con la fisioterapia. Adesso mi metto un po' in ordine qua e poi me ne vado a Nannas. Ciao Walter, ciao Bombolo, ciao Antonello Alessio, vedi Antonio, questa è una sfida che ti sta lanciando Walter, mettiti sotto e così anche tu cambi un pochino, dai, ci dall'altra parte, va bene, comunque così, chi ce l'ha deve fare attività, io vabbè, sono fatto un po' a conto mio comunque. Però poca che faccio, ci sono sempre, quando mi chiamano rispondo, se non mi chiama nessuno mi faccio i fatti miei. Qua stavo dicendo un'altra cosa, ma mi sono inceppato nel radio deluxe Walter, non cammina né avanti né indietro, provate a resettarlo, non si muove più, ha giubilato e non gli è trattato tutto e l'ho disinserito, adesso manco metto appena in zona, me lo reinserisce nuovamente, ma secondo me è quella versione vecchia che non va bene. c'è la versione nuova che a parte che adesso è appagato, prima ero più grande, faceva lì con RZ, il compilatore. Adesso invece il compilatore cambia, a volte il nome, o il locatore, andavo, se tu lì ci sono $29 all'anno per questo quadrato lo posso, non l'ho più sentito, mi dispiace se ho portato anche il tipo poi anche quando c'era il nato degli altri paesi così se ci sono andato le parte questo quadrato noi c'eravamo tutti sicuri per fare proprio le città che non si può toccare no? Città poi diventano durante di base di spazio. Infatti non lo capisco che l'attività si fa fuori sasse, non si fa dentro sasse. A me cosa meno affutti c'è arrivo più basso di Tizio Caio e Selbrunio perché sono tutti uno attaccato all'altro dentro sasse. Poi li metti uno a fianco all'altro non arrivano da più alla Landrica, cazzo, per carità. Ma infatti è meglio ci siano, che ci sia attività fuori sasse e non dentro sasse. Dentro sasse non meno affutti nulla a me. Io ormai sono abituato a parlare con i baracchini dentro Sassari a 4 watt, va bene così, quando poi c'è qualcuno di fuori allora do qualche watt in più, ma se non me ne fate niente, intanto è così, sono tutti uno attaccato all'altro, cazzo, è come che si mettono a sovramodulare a me Antonello, siamo attaccati, come fanno a sovramodularci, o a me Antonello, Falchetto, Fabrizio, come fanno, cazzo, non li capisco. È tutto un discorso che gira intorno alla merda, secondo me. Vabbè, pazienza. L'importante è che si faccia attività poi. Ognuno deve fare quello che vuole. Dai, io vi saluto, è tardi, e domani devo stare alle 6:30, alle 7:00 c'è la fisioterapia. Ciao a tutti, buonanotte alle Crocimine, ciao Antonello, Bombolo, Walter Diabolico, grazie per essere entrato, è sempre un piacere parlare con te. Fate sentire più spesso e domani mattina chiamo a Giorgio e le dico se le dico che mi hai dato il numero di telefono tu, se mi fa quell'operazione con 7004 non lo facciamo andare subito, immediatamente, dico spediscilo subito che non ci sono problemi. Ma ne ha usati o nuovi anche? Nuovi non esistono più, quello 7410 c'è una lingua che l'hanno peggiorato, così dovranno non usato, sì, sarà. Che guasti, cazzo, ma c'è da aggiungere le UHF e ne hanno tolto le V. Che imbecilli, cazzo. Invece fanno diventare quadro in banda, non hai fatto un babbo in banda, non hai fatto di vita. Che imbecilli, cazzo, guarda, incom. Fare le cose assurde, per carità. Vabbè, comunque domani ho il telefono e poi ti faccio sapere, niente, se mi dice ti faccio chiamare. Bombolo, microfono per te, ascolto il finale, poi chiudo, che è tardi. Buonanotte a tutti, avanti a voi. Ma sono qua, e mi esco pure io, me ne sto andando, a nanna pure io. Dai, buonanotte Claudio, ce la risentiamo alle prossimine. Avanti Popo. Yeah, ciao Claudio, ci sentiamo, buonanotte. E buon tutto, alle prossime. Ciao, buonanotte, buonanotte Popo. Popolo. Dimmi, Walter. Ah, nel 1970, non sono così rinato, questo 2002 ce l'aveva un CP di rifugi che aveva un locale, non un locale, dopo lo vedo che aveva uno studio. E chiamava Popolo, poi ovviamente non c'è stato durato 3-4 anni. Capa, forse ho capito che stai dicendo, già lo conosco già. E me la via pure lo peggioro, me la via il suo nome un attimo. Mario, Ruggio si chiamava, no? Forse, non ne sono sicuro, era una fianca al Bar di Barone, più che fianco alla casa. Poi adesso lui mi pare che abbiamo fatto un palazzo. C'era l'antenna lì. Non mi arrivava bene, perché avevo una super regia, più vari punti, la Zania e la era lui era italiano, c'era 72, 73, non le ricordo esattamente, non era di certo tra i primi, però era certo. Il capo, lo conosce bene Luigi, lo conosce bene, sciarpa. Stavo dicendo, e io faccio lo stesso mestiere, io porto le bombole. Figurati, allora chiudevo il campo, allora il barco, non mi ricordo neanche il cognome, Salvatore, scusa. Scappa, lo figlio si chiamava Mario, mi pare. Non me lo ricordo, direi delle cose imprecise, non me lo ricordo. Dal campo parlava. Va bene. Capo, dai. No, no, pure io faccio quel mestiere lì. Da sempre. Capo, dai, buonanotte a tutti, Walter e anche a te, Pomponio. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Ciao, noi ci sentiamo una notte, un tutto. Ciao, va bene, lì. Sentiamo, vai. Ci sentiamo sempre, sai. Ti sento la mattina presto, perché questo dottor Metro non c'è la comunicazione dall'Est Europa come l'altra volta, che stavi parlando con uno di nominativo, eccetera eccetera, di chiamarti. Stavo ascoltando questo dottor Metro del nuovo, sarà stato 2 mesi fa, forse 3 mesi, una cosa del genere, questo dottor Metro. Adesso è un periodo che sono anche sotto giornato, non so avversari, non c'è Marco, non c'è Nino, non ho avversari, non so così, stendo in alto, dove c'è olio della bandiera stanza, ma era più divertente con la competizione. Ti giuro, se sali qui uno di questi giorni, scusi per togli tu uno squizio, che altro. Se c'è propagazione dalla zona dell'est, sali qui a casa e con il baracchino che ho io, con Kim Dusso, sai, e con la RG che ho io, fate tranquillamente con la Bussia, 9-9-20, eccetera, eccetera, ti diverti almeno. Ti fai una palata per 1,5 euro, anche 4-5 euro almeno addirittura. Dove vuoi, sali qua, te lo sto dicendo, era un punto veramente bello questo per la zona dell'est. La prendo in pieno. Perché qua non sono riuscite, le copertole qui in più sono state, non paragono. Perché perdono questa, invece qua di matto che in alto, da matto in alto, alla tua testa, questa qui c'è 80 anni. Però che è proprio sotto la collina di Osso, infatti, qualcuno non faccio tu, io faccio paragoni, io voglio fare prove, una stazione ben organizzata, un professore mi mancanza perché è ancora più distante, ed è vicino al mare, nonostante sia 40 metri, sicuramente è il mare. Mentre poi se facciamo il contrario, se vai a fare le prove con l'olio, anche con la Spagna, con la virtude, se è con la verticale, fa chiesto di 4, molte volte mi sparano, io penso che niente, io faccio due di casa, sono a studiare, poi vado a risaltare, vado nella scuola, faccio un po', se non mi piace le appene, io mi prendo da quella zona a fare un po' di vino, mentre io parto con la parte opposta, la produzione non ce l'ho avuto, non c'è niente. Allora io qua sento tutta quanta la zona della Russia, Ucraina e cose del genere. Quando faccio la spazzolata la mattina, tutto l'onde, dal canale 1 al canale anche addirittura 29 30 mega, tutto l'onde. Ti dico 9920, 9920, le sento perfette. Invece dove abitavo prima in Viseggio solo Spagna, Portogallo e la zona del coso, del centro Sardegna, vedi, parlavo con Bosa Marina, Odottelli, da Cito arrivo a Santiago 5 con il BVC 131, Santiago 13 e Santiago 5 attaccato, quindi io ti parlo da qui, io certe zone non lo sento per niente, però da qui, la zona della Russia, Ucraina, quella genere arrivo proprio a scala qua, tutte, a parte la Sicilia, sento Calabria, e la zona di Bontano e cose, come si dice, la Germania, basta. Tutto andrà diverso da come sentivo in via di Fido per dire. Invece il centro storico, c'era la Spagna, tranquilla con la Gran Paese, sentivo benissimo, parlavo la Germania, ogni zona c'è il punto debole suo. Di extra limite se lo fai, non c'è problema, alle prossime.